Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo, sono le 15, è il momento del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, poi il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come trovarci? Beh, siamo in diretta, basta scriverci al 349-238-6666. Vanno bene gli SMS, vanno bene anche WhatsApp, oppure mi potete trovare su Twitter con il mio account @MartaCagnola, ma anche con gli hashtag cancelletto ISDV come le iniziali di Il Sabato del Villaggio o anche cancelletto RadioTube con il titolo della terza ora del nostro sabato. Ma ora scopriamo i temi di questa puntata, nella quale continuiamo, dopo il primo giorno di scuola della scorsa settimana, a capire come sarà un po' la nuova stagione. Parliamo di tecnologie, torniamo sui telefonini, sempre di grande attualità. Parleremo di novità anche piuttosto, come dire, esplosive. E poi l'appuntamento con il gastronauta per scoprire tutte le tendenze che ci aspettano al rientro, il cinema con le novità in sala questo fine settimana, ma prima tutte le novità in fatto di TV, la nuova stagione che sboccia proprio in questi giorni. Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Ho problemi nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parto in suono a metà. E ogni volta che mi parte sono imbarazzante, come quella volta che stava ristorante. Posso offrirti da bere, le dice, ma come solo che quando le passo via. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Beh, è la canzone di Rovazzi, ma avete capito anche voi che non è Rovazzi. Ieri sera è ripartito Tale Quale Show, uno degli show che aprono la stagione televisiva. Questo era Enrico Papi, il video è stato subito molto molto molto condiviso. Insomma, cantare così così, però ballava molto bene. Chissà com'è parso Tale Quale Show e chissà com'è parso questo inizio di questa stagione e tutto quello che sta per iniziare. Cosa incuriosisce il numero uno tra i blogger, nonché il mio preferito, Davide Maggio. Ciao Davide! Buon pomeriggio, a cosa devo tutta questa bontà? ma lo sai Davide, lo sanno anche gli ascoltatori del Sabato del Villaggio che io ho un debole. Come ti è parso? Un debole reciproco. Vedi, basta, dopo tutta questa melassa che non ci contraddistingue peraltro perché siamo due serpi. Come ti è parso ieri sera Tale Quale? Mamma, posso dirti una cosa? Sì, già col sospiro. Sì, mamma, io non voglio essere polemico, però sempre la stessa cosa. E questo a me, io credo che sia uno dei programmi più carini e più indovinati degli ultimi anni. Sì. Però non puoi fare sempre la stessa cosa, anche e soprattutto quando, secondo me, il cast poteva essere scelto in maniera forse un pochino più accurata, probabilmente gli imitatori potevano essere lasciati a casa. Perché credo che la cosa più divertente sia quella di vedere delle persone che non imitano per professione cimentarsi con delle imitazioni. E no? Invece ci sono un paio che sono obiettivamente molto più bravi degli altri. Manlio Dovì, che ha vinto la puntata, sì. È stato straordinario, è stato perfetto, però ricordiamo che è un imitatore di professione. Insomma, c'è un po' di differenza, secondo me, probabilmente l'avrei evitata, anche perché il pubblico alla fine è attratto dallo stupore che può creare un personaggio che appunto nella professione fa tutt'altro nei panni di qualcun altro. E quindi, insomma, l'imitatore fa perdere, secondo me, un po' di genuinità al tutto. Fatto sta che, insomma, rimane sempre un programma gradevolissimo. Beh, da io guardare. Poi sono sempre team Carlo Conti, perché lui è sempre un professionista pazzesco. Assolutamente. Bravo, bravo. Però ti devo dire anche la verità, da quando ha mietuto parecchi successi con il Festival di Sanremo, un po' di arroganza. No, in meno. No, guarda, protesto, sai che io sono team Carlo Conti 100%. Ma cosa mi dice Davide Maggio? Un pochino di arroganza in meno, però diciamo che c'è di peggio. Vabbè, su questo non siamo d'accordo. È ricominciato Pechino Express, invece sta per iniziare il primo esperimento del Grande Fratello VIP. Qui come la vedi? Guarda, io sono stato sempre favorevole ad un'edizione VIP del Grande Fratello, perché secondo me poteva portare un po' di novità ad un formato che ormai era un po' bollito, no? E che nonostante questo però continuava ad avere dei consensi, soprattutto in rete, nonostante poi delle critiche feroci da parte principalmente della stampa, no? Probabilmente critiche anche giuste, se devo dire la verità. Quindi un'edizione VIP sicuramente positiva, però c'è sempre questa alone di negatività che è abbinato un po' al Grande Fratello, e devo dire per alcuni aspetti giustamente, perché sono anni che provano a svecchiarlo, a rinnovarlo, a presentarlo in una formula nuova che non c'è mai. Per cui vediamo almeno se l'apporto che possono dare dei personaggi famosi può cambiare un po' le cose. A me incuriosisce molto, al di là poi delle scelte del cast che mi interessano meno, mi interesseranno all'opera, però mi incuriosisce molto come formula. Anche a me, perché sono curioso poi di vedere anche una Marini e una Prati 24 Vabbè, ore su cat 24 fight, cioè tutti sono lì che aspettano la lotta nel fango tra Marini e la Prati, questa è la verità. Sì, io penso che serviranno delle parrucche per andare a tamponare un attimo. Ecco, Gianni Damiano ci scrive: al Grande Fratello VIP scommetto 10-1 che ci saranno VIP vecchie. E non so a chi si riferisca, mezze nude. Non lo so, Gianni, non lo so se osano. Sai cos'è? Che obiettivamente, no? Un personaggio come per esempio Pamela Prati, che la quale si può ancora permettere di... Si può permettere davvero, no? Chapeau, di tutto. Che mi fai la Loretta Goggi adesso? Io sono sempre... Ma Loretta Goggi che ieri ballava Andiamo a Comandare, vabbè, niente. Poi se vogliamo possiamo aprire anche una parentesi lì. Però la Prati, dicevo, che alla sua età può permettersi di far bella mostra di sé, e lo farà sicuramente. Pensa alla Marini... quanto poco potrà gradire l'esposizione della collega. Ma senti che vipera, no? Davide Maggio. Cioè, tu dici che la Prati potrebbe scoprirsi perché ancora può? No, io ne sono certo. No. Non è che potrebbe. E qui per far rosicare la Marini, che magari... Ma io non la vedo di persona vedrai. Magari è in forma, non lo so. Invece vorrei sollecitarti su un altro show che è appena ricominciato, con questa clip. Tu non hai doti particolari come cantante, lasciatelo dire. Eri abbastanza impalata in realtà. Sei troppo impostato a livello proprio emozionale. Le emozioni non si impostano. Fino a che non hai voluto dimostrare di saper fare qualcosa tecnicamente, per me eri punk. E poi invece quando hai voluto dimostrare di farlo tecnicamente non eri più punk. Tu hai degli amici che ti hanno sentito fare questa cosa prima di venire qua? Forse questo non è il tuo lavoro. Sei antica, cazzo. Cioè, lo vedevo al Festival Bar degli anni Ottanta io questo. Oggi su tutti i quotidiani, gran pezzi nelle pagine di spettacoli su Manuel Agnelli, cito un titolo su tutti, La Repubblica con Gino Castaldo che titola La Repubblica che titola il pezzo di Gino Castaldo, anche perché magari gli ascoltatori non lo sanno, non è l'autore dei pezzi, di solito che fa i titoli, diciamolo. Solo la ferocia può salvare i talent. Voglio sapere cosa ne pensi, cosa pensi di Manuel Agnelli e di X Factor, del quale parleremo molto questo sabato pomeriggio, anticipo. Assolutamente d'accordo con il titolo di Repubblica, perché io credo che il giudice si debba fare come lo ha fatto Agnelli nella prima puntata di questa nuova edizione di X Factor, perché fino a quando ci sarà questo buonismo dove tutti sono bravi, tutti devono provare a migliorarsi, No, non è così che si fa, cioè si deve essere sinceri, io credo che la sincerità paghi sempre, e dire alle persone che si presentano per poi avviare una carriera, perché magari l'obiettivo è anche quello, no? Le cose, certo, come stanno, quindi se non va bene, e come ha detto in un caso, penso che non sia il tuo mestiere, tanto di cappello, cioè anche perché ci vuole un po' di coraggio, no? Probabilmente va sì, bene. Che poi era anche un po' il... Certo. Ecco, era un po' il difetto che aveva ad esempio The Voice, in cui erano tutti bravissimi, sì, ti prego, vieni nella mia squadra, ti adoro. Sì. The Voice che però mi pare defunto. E beh, direi morto e sepolto. Ah, proprio anche sepolto, oltre che morto. Io credo che arrivi Idol, come ho scritto ebbene qualche sì, tempo ebbene fa. Ebbene sì, allora, raccontami un po' quali sono le trasmissioni che attendi di più della prossima stagione. Idol, che noi abbiamo sempre visto all'estero lanciare molti talenti, sarà il nuovo talent Rai? Sbagliatissimo, secondo me, tra l'altro. Perché tu non puoi... Cioè, sai qual è il problema nostro, Marta? È che... andiamo a ripescare come facemmo anni fa, facemmo intendo Italia, certo, poi noi non c'entri a nulla, formati vecchi presentati come nuovi, cioè, ah, certo, prima dell'arrivo di The Voice, per esempio, che è, ricordiamolo, forse il talent musicale al momento migliore al mondo, parlo di diffusione e di ascolti, noi scegliamo Star Academy, cioè che è un programma vecchio all'epoca, e infatti andò malissimo. Certo, certo, facendo vero. Poi delle scelte, vedi. Ma dimenticatissimo, peraltro, Star Academy, proprio perso nelle nebbie del tempo. Dove però c'era una cosa fantastica, secondo me, che era Ornella Vanoni come coach, ah, come è giudice. Vero, vedi, me l'ero già dimenticata. Che era una roba strepitosa, secondo me. Quindi ci sono delle cose buone che dovrebbero essere salvate e poi riproposte. The Voice, ad esempio, il meccanismo delle blind è una delle cose più forti che ci sono. Vero, che nessun vero. Altro musicale, talent musicale ha, ed era una cosa sulla quale si doveva lavorare. Secondo me Rai 2 poteva aprire il portafogli e investire qualcosa nei coach, perché voglio dire, è facile, cioè, poter pescare dei giudici validi, soltanto che li devi pagare. Il problema, credo, di Rai 2 è, penso fosse quello, cioè non c'è mai la volontà di investire su un prodotto che invece è quello che ti fa Sky. E mentre io all'inizio ero un po' polemico con Sky, perché Sky tutto quello che sfornava era il meglio che potesse esserci, adesso sono favorevole perché i risultati li hanno avuti. C'è investito. Una domanda che ci arriva da Twitter. Marco, sentiamo, chiede: ma la messa in onda di Pechino e Grande Fratello VIP lo stesso giorno, chi penalizzerà di più? Nessuno dei due. Mm. Perché io sono a favore degli scontri forti. Ah, bene. Perché quando c'è uno scontro forte, il pubblico rimane sintonizzato e quindi magari fa zapping, cambia da un canale all'altro perché è sveglio, cioè rimane... c'è dell'interesse, viene suscitato dell'interesse, no? Quindi secondo me quando ci sono dei programmi forti il pubblico c'è, e quando non ci sono il pubblico se ne va, per cui non credo che ci saranno, sì, magari, sai, si potrà spostare un punto, due punti, poi comunque ricordiamoci che Canale 5 è sulla carta più forte, no? Certo. Rispetto a Pechino, anche se Pechino quest'anno con la prima puntata ha fatto un exploit con Pechino che era inaspettato, secondo me. Bene, bene. La prossima settimana avremo un grande ospite da Pechino Express, ve lo anticipo, non vi dico ancora chi è, ma la prossima settimana lo scoprirete. Davide, al volo un flash, qual è invece la trasmissione che aspetti tu di più per la prossima stagione, quella che incuriosisce Davide Maggio? Ma guarda, al momento sai che probabilmente non so se per un vuoto di memoria mio, ma al momento non aspetto nulla, nel senso che sono già rimasto particolarmente deluso dagli esordi. Vogliamo parlare delle fiction, per esempio, una roba da mettere niente, le mani nei capelli. Sì. Per cui al momento io non aspetto nulla. Magari sai. Vabbè, salvo sorprese. No, sai, ecco cosa sono curioso di vedere, forse. Cosa? Il programma dell'avventura su Italia 1. Ah, certo. Perché sono convinto che andrà malissimo. No, ti prego, non dire così. Che poi Simona ascolta Radio 24. Simona non ha detto così. Perché ma dici Simona questa sa che, cosa? Ma con Simona siamo amici, per cui dai, sa sicuramente che c'è della stima nei suoi confronti. Non è questo il punto. Ma nel momento in cui tu, in un programma di bellezza, o diciamo diciamo, di bellezza. Sì. Insomma, metti nel titolo selfie, perché il programma si chiamerà Selfie e poi non mi ricordo come, significa già che hai dei dubbi, secondo me. Perché se devi, come posso dire, far leva su una cosa popolare e diffusa come i selfie, che però col programma c'entrano ben poco, no? Mi fa capire che forse qualche dubbio c'è. Però staremo a vedere, magari mi sbaglio, anzi, sarei felice di sbagliarmi in questo caso, perché Simona, dopo un po' di insomma, di anni in cui non ha avuto ciò che avrebbe potuto avere, insomma, mi piacerebbe che ritrovasse un po' la sua strada, magari se si calmasse anche un po' sui social, si gestisse diversamente, sarebbe anche cosa buona e giusta. Povera Simona, selfie, le cose cambiano, ecco, come il titolo. Ma ce lo facciamo anche noi quando ci vediamo, vediamo che cambia. Poi sì, vediamo cosa ci risponde Simona. Una buona parola sempre per tutti, io e te, caro sempre, Davide. Sempre, sempre, proprio ad aspettarci sotto casa. Un abbraccio, un bacio a Davide Maggio. Grazie, un bacio, Davide. Un abbraccio a tutti voi, grazie mille. Grazie a Davide Maggio, vabbè, lui è il blogger televisivo numero uno. Io lo dico sempre, noi ci ritroviamo tra poco dopo il traffico. Il sabato del villaggio. Sono le 15:17 minuti e a quest'ora c'è proprio voglia, io non so voi, ma di un bel caffè. Io sì, mi berrei proprio un bel caffè a quest'ora. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. Ma caffè da solo o già che ci siamo facciamo merenda? Io direi che caffè e merenda. Sono quasi le 3:30, 3:20. Dai, sì, è il momento giusto. Allora, come facciamo merenda? Lo chiediamo al nostro gastronauta, Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, ma... L'avevamo detto la scorsa settimana, sì, che era il momento della merenda. Mi hai fatto venire voglia della merenda, però, in questo punto, anzi del caffè. Con questo Frank Sinatra dannata, che è sempre buono, sempre è buono. È ancora un po' presto però per la merenda, perché... Ma che ora? Insomma, ma vuoi fare tipo il tè delle 5? Dobbiamo aspettare fino alle 5? Sì, perché molta gente alle 3 ha cominciato appena a digerire, perché c'è gente che va sempre al sud, si va a tavola molto più tardi. Io sono brianzola, Brianzola. Ma sai che io ho provato a chiedere a un po' di gente se fa ancora la merenda, prima di appunto di oggi, ma sai che non la fa più nessuno la merenda, ma sai perché? Perché? Perché è stata superata da quella terribile, terrificante parola, ma non usatela. Mi viene già male apericena. No, ti prego, mi viene l'orticaria al solo pensiero. No, ma io non so, ma chi ha inventato sta parola? Ma era molto meglio happy hour, anche se era straniera, ma lasciamo happy hour. Ma apericena. No, apericena, sai, io attacco alla giugulare, no, orribile. È terrificante. Quindi io credo che ormai la merenda, sì, la faccio nei bambini e io... Sinceramente non mi sento di dare dei consigli, se non quello: mangiate poco merendine, ma datevi una fetta di pane con l'olio, una bellissima fetta di pane con l'olio, oppure se c'è qualche bambino che ha già tendenze gastronautiche. Ah, che poi adesso i bambini ce li hanno tanto, le tendenze appunto, gastronautiche. E allora io do una ricetta alle mamme. Oh. Allora, una bella fetta di pane, squacquerone, oppure possiamo mettere anche dello stracchino, perché lo squacquerone al di fuori della Romagna non si trova, o si trova, ma diciamo difficilmente. Mettiamo dello stracchino e sopra, sai cosa? La marmellata di more. Ah, però, senti, che bella idea! Viene fuori una cosa straordinaria, veramente. Oppure se c'è la possibilità di avere una piadina sotto mano, una bella piadina, anche quella con la mortadella, mamma mia, cioè piadina e mortadella, così i bambini crescono bene. Invece ora gli danno tutte queste cose già pronte, gli danno lo yogurt. Ecco, si mangia sempre lo yogurt, ma basta con sto yogurt. Tanto è vero che io ho un agopunturista che mi dice che lo yogurt poi non è che faccia così bene. Quindi, attenzione. Ma mettiamo via lo yogurt. I biscotti, ecco, rimangono i biscotti. Molti bambini mangiano i biscotti, allora anche lì bisogna stare un po' attenti, bisogna leggere le etichette dei biscotti, mi raccomando, leggete le etichette dei biscotti, vedete cosa c'è dentro e poi dopo di questo datelo ai bambini. Però andiamo ai grandi, andiamo ai grandi. Allora c'è una merenda storica in Italia che si chiama merenda Sinoira. La merenda Sinoira, che è una merenda molto diffusa, era molto diffusa nelle Langhe soprattutto e in Piemonte. Merenda Sinoira, Sinoira vuol dire vicino alla sera, quindi diciamo che era un mezzo pasto, quello poi che è diventato quella parola che ci rifiutiamo di pronunciare, ma insomma è l'happy hour, andiamo un po' indietro negli anni, insomma negli anni in cui si chiamava ancora così, ma era una merenda talmente sostanziosa che in fondo era una cena. Perché? Perché molti la facevano, ad esempio, ora nel periodo della vendemmia, sotto il periodo della vendemmia, quindi dopo le fatiche, dopo aver mangiato anche un pranzo, prima di arrivare alla cena serale si mangia all'aperto, ma con dei salumi innanzitutto, quindi ecco, diciamo che è una cosa molto impegnativa, perché si mangiano il salame artigianale, il prosciutto cotto al forno, il lardo alla campagnola, e poi si passa ai formaggi, perché sai, i formaggi sono molto diffusi in Piemonte, quindi raschera, il bra, la toma di langa, che vengono poi accompagnati dalla cugnà. Cos'è la cugnà? La cugnà è un nome che deriva dal passato, vorrebbe dire mosto di vino, che viene mescolato assieme alle nocciole, alle mele, alle pere e tanti altri ingredienti, e viene accompagnato appunto al formaggio. E come puoi capire, altro che merenda, questa era una vera e propria cena, anche perché poi il vino andava giù a gogo. La sera, quindi, minestrina, esagerando, sì, proprio. Sì. Ma anche perché c'era la tendenza un tempo a mangiare poco la sera. Certo. Anzi, ora tutte le grandi teorie che sono uscite dal punto di vista medico, non sulle diete ma sul mangiare giusto, prevedono che tu debba fare una grande colazione, tu debba mangiare, sì, diciamo a mezzogiorno, non sostanzioso, ma insomma un pasto regolare, normale, e alla sera mangiare pochissimo, perché poi bisogna digerire durante la notte. Quindi credo che in passato, bene o male, c'era un modo di alimentarsi che, sì, c'erano tutte cose molto grasse, tutto quello che si vuole, però era molto sano se uno va a ben vedere, se uno va a ben controllare. Quindi io non dico oggi di rifare la merenda Sinoira, però te l'ho portato così come un fatto storico importante della storia rurale italiana. Certo, anche perché poi ci immaginiamo che l'aperitivo sia un'invenzione moderna, invece non è così. No, l'aperitivo è un'invenzione moderna e sono non dico i rifiuti, ma sono quello che resta molte volte della sera in certi locali. Vero. Oppure che magari è lì freddo da 3 giorni o in frigorifero. Diciamo che la pericena, oddio l'ho citato, madonna. Ogni tanto scappano queste tanto parolacce. La pericena, secondo me, è veramente dal punto di vista gastronomico molto ma molto pessimo, perché non c'è qualità, non c'è attenzione, non c'è originalità. E io credo che invece ci potrebbe essere, perché invece di fare quelle montagne di pasta asciutta che sono già lì da 3 giorni e servirla fredda, si potrebbero fare dei piatti freddi, ad esempio il vitello tonnato potrebbe essere fatto, che è una cosa straordinaria. Il vitello tonnato credo che sia uno dei piatti italiani più interessanti, che può essere usato a tutte le ore. Oppure l'insalata russa, invece di fare tanti verdure di ritorno, secondo me l'insalata russa è un altro piatto che potrebbe essere dato per durante l'ora dell'aperitivo. Ovviamente ormai aperitivo però sono i cocktail. I cocktail hanno preso veramente il via in questo paese, non c'era tradizione, eppure sono diventati, in ogni momento si vedono bere in giro per le città, per i paesi, per i borghi, si vede lo spritz è diventato, credo, una bevanda ormai talmente diffusa che va benissimo, perché è un ottimo cocktail. Non so tu cosa ne pensi. Io sono appena tornata da Venezia, quindi insomma diciamo che ho sperimentato lo spritz in tutte le sue varianti, perché giustamente a Venezia ti chiedono con cosa lo vuoi. C'è un ascoltatore che ci scrive: ho appena preso il caffè a Lecce rigorosamente locale con un dolce di pasta di mandorle farcito di marmellata all'amarena. Che roba! Allora sai, quello non è un dolce di mandorle. Lui ha mangiato il pasticciotto. Il pasticciotto che sicuramente, ecco, è un'ottima cosa il pasticciotto. Questa tradizione salentina la trovo eccellente, questa del pasticciotto con o senza amarina. Però ormai anche lì c'è la tendenza al, diciamo, a un dolce riscaldato. Anche a Milano ormai il pasticciotto si trova, arriva da Lecce e dintorni, però si vede sempre quando lo assaggi bruciacchiato attorno. Perché viene riscaldato, però rimane sempre buono. Il pasticciotto col caffè io lo consiglio, non solo. Ho sostenuto non molti anni fa che Lecce è la città dove mediamente si beve il miglior caffè italiano, nel senso che in ogni bar il caffè è servito con attenzione, è un ottimo caffè e c'è molta attenzione da parte dei camerieri o dei baristi. La mia battaglia ormai dura da anni contro il caffè servito male. Io ho sempre sostenuto che in Italia non si beve un ottimo caffè, ma ci sono dei luoghi dove si beve un eccellente caffè, però mediamente in questo paese non si beve un gran caffè. Non si beve un gran caffè, uno, innanzitutto per la poca preparazione dei baristi, perché non puliscono la macchina con attenzione come dovrebbe essere, non controllano l'acqua con attenzione anche questa, poi si distraggono molto e quando oggi hanno le macchine automatiche, però se ci sono ancora alcune macchine meccaniche vedi che non sono preparati a usarle, perché fanno il caffè in due secondi un po' come dire tirato via, anche perché noi italiani riteniamo di essere imparati a fare il caffè. Sì, lo diamo per scontato, sì, ce lo diamo nell'anima, quindi il caffè espresso italiano deve essere superiore a tutto quello di tutto il mondo. Anzi, io lancio una palla in mezzo al campo in questo momento. In Italia è preannunciato l'arrivo di Starbucks. Starbucks è questa catena di caffetterie che ormai si è diffusa in tutto il mondo, escluso l'Italia. Bene, sento dei De Profundis da molti che sostengono: figurati se in Italia funzionerà Starbucks, che fa un pessimo caffè e sicuramente non è all'altezza del nostro espresso italiano. Bene, io invece faccio una previsione, poi magari verrò smentito e sono stato smentito anche molto volentieri. Io credo che Starbucks farà molto successo in Italia, perché c'è quella attenzione verso il cliente notevole. Già i locali si prestano a fermarsi, a magari fermarsi un secondo per il caffè, non in fretta, non al banco, e diciamo ingurgiando velocemente il liquido nero, e io credo che possa veramente dar noia a molti bar italiani che sono impreparati. Io non faccio testo perché non mi piace l'espresso, preferisco il caffè lungo, quindi io non posso esprimermi, perché io tendenzialmente berrei solo brodaglie lunghissime, quindi sono favorevole. Vedi, tu stai dicendo una cosa importante: i bar dovrebbero prevedere anche questo. Sì. I bar dovrebbero prevedere tante tipologie di caffè oltre l'espresso, perché non tutti diciamo amano l'espresso, però pochi lo fanno, questo è il punto, o lo fanno con molta malavoglia, con disattenzione. Invece ci sono clienti che bevono solo quello ed è giusto rispettarli. Un'ultima cosa comunque, ci sono degli ottimi caffè in Italia, non è che voglia diciamo distruggere tutto, sicuramente ci sono molti bar che usano delle miscele che si trovano in giro per il mondo, che trattano con molta attenzione, quindi ci sono anche dei torrefattori in Italia di livello internazionale. Quindi, però devo dire che non siamo così come riteniamo di essere, i re del caffè, i re dell'espresso in giro per il mondo. Luigi da Modena al 349-238-6666 ci dice che quest'estate in Grecia ha bevuto un caffè nettamente superiore a quello dei bar italiani, ai noi. Luigi, sì. Se tu ti ricordi, a scuola c'era un CDD, come dovevasi dimostrare, esatto, in fondo a molti esercizi. Quindi Sì, certo, ma magari ora chiamerà anche un altro che ha bevuto, non so, a Benevento piuttosto che a Napoli un caffè straordinario. Sì, sì, infatti ci stanno arrivando, a Napoli ci tengono la tradizione del caffè, sì. Stavo per dire, appunto, Napoli ci sono degli ottimi caffè. Ora non faccio il nome di una torrefazione che è straordinaria di Napoli, ce ne sono tantissimi di ottimi a Napoli, però anche a Napoli molte volte non si beve un caffè straordinario. La media però a Napoli è alta, quindi non per l'acqua come qualcuno pensa o ritiene. L'acqua sì, può essere completamente diversa, non può, magari contiene meno ferro, ma in realtà a Napoli c'è la cultura del caffè, non è tanto molte volte l'ingrediente che fa diciamo straordinario un prodotto, ma anche la cultura e l'amore che ci si mette. Quindi un caffè servito sul banco con amore, col sorriso, perché pochi baristi che sorridono, vero, specialmente al mattino alle 7, ecco, se ci fosse un caffè servito con sorriso, con un buongiorno, probabilmente si passerebbe sopra anche magari a un qualcosa che non è perfetto. Davide, chiudiamo col caffè, col sorriso, col buongiorno e con l'amore, mi piace moltissimo. Dal caffè siamo partiti e al caffè siamo arrivati parlando di merenda. Grazie a Davide Paolini, al prossimo sabato. Alla prossima, ciao, alla prossima. Ciao, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. I vostri messaggi al 349-238-6666. Daniele, a proposito del caffè, i migliori caffè di sempre in Vietnam bevuti sulla maca. E vabbè Daniele, però così, come si diceva un tempo, vinci facile. Ormai in Europa si beve solo un famoso caffè con le capsule, se si vuole bere un espresso tutto allineato, Alberto da Rovigo. E poi ancora Andrea da Milano, sono d'accordo con te, quando provi a chiedere caffè americano, legasi filtrato a caduta, ti danno espresso allungato con acqua. Orrore, Andrea, hai ragione, è vero, è verissimo, non ci piace per niente. Adesso però è il momento di Enrico Pagliarini e io vorrei introdurlo così. Boom, boom, boom, boom, boom. La mia testa fa boom, boom, boom, boom, boom. Il mio corpo fa boom, boom, boom, boom, boom. Sento solo boom nella testa boom. Sento solo boom la mia orchestra. Il mio telefonino fa boom boom boom boom, o meglio la mia batteria del telefonino fa boom boom boom ed esplode. Ma è vero che scoppiano queste batterie dei telefonini? Ciao Enrico. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. No, perché in questi giorni leggo che questi telefonini scoppiano, è vero? Allora, è quasi vero. Allora, diciamo che da circa un mese, perché ormai è un mese, che ogni settimana si susseguono notizie relative al Galaxy Note 7, che è uno smartphone, si dice in gergo tecnico, un phablet, cioè un misto tra smartphone più piccolo di un tablet, più grande di uno smartphone. Sì, ok, esattamente. Perché le prime avvisaglie si sono state in Corea del Sud, dove questo prodotto è appunto già disponibile sul mercato dalla metà del mese di agosto, e per semplificazione giornalistica si dice le batterie esplodono. Allora in realtà non è che esplodono come una bomba, ok? Però ci sono stati alcune decine di casi, quindi parliamo comunque di dello 0,000. Esatto, però per precauzione, visti i problemi che ci sono stati e questa batteria che si, ecco, forse è più corretto dire si incendia, comunque c'è un principio di incendio tale per cui il risultato finale è che si vede dalle fotografie che abbiamo visto, perché io mica ho visto dei telefoni che si sono dal vivo, che si sono incendiati, certo. Ecco, sembra appunto che abbia preso fuoco, e in effetti ha preso fuoco. Ricordiamo che le batterie sono materiale chimico, quindi comunque altamente infiammabile. Se qualcosa non va per il verso giusto, non è la prima volta che succede, è una cosa che può succedere per problemi di progettazione. Sappiamo la pressione che c'è soprattutto nel mondo dell'elettronica di consumo e nel mondo degli smartphone per far uscire prodotti nuovi, e quindi può essere che in fase di test, la fase di test sia molto breve, quindi non ci si accorga di problemi di progettazione, di costruzione. Insomma, che cosa è successo? Che questi prodotti comunque sono stati ritirati dal mercato. Domanda, c'erano anche in Italia? Non ancora, no. Okay. Infatti il problema in Italia non esiste, a meno che qualcuno abbia comprato un prodotto, ma devo dire che sono sicuramente pochissime persone, all'estero, perché era disponibile già. No, in Italia quando il problema, insomma, si è capito che questo era un problema serio... Stavi dicendo quando il problema è esploso. È esploso, esattamente. Quando il problema è esploso, l'Italia non era ancora coinvolta. Insomma, comunque, oggi Samsung ha deciso di ritirare questi prodotti dal commercio, però pare che ci siano ancora alcuni, almeno io ho letto che in Corea del Sud ci siano alcuni fanatici che comunque il telefono se lo sono tenuti, perché poi ricordiamo, se tu non sei in quello zero virgola, il tuo telefono funziona tranquillamente, però per precauzione però Samsung... Non vuoi dimostrare di non essere. Esatto. Comunque Samsung la prossima settimana, il 20 di settembre, metterà a disposizione un software che risolve il problema. Che cosa fa questo software? Fondamentalmente obbliga il telefono a non ricaricarsi più del 60%, perché il problema c'era quando la carica si avvicinava al 100%. E qui do subito un consiglio per l'uso. Se vogliamo mantenere efficiente e anche longeva la batteria dello smartphone, sarebbe buona regola non caricarla mai al 100%. Devo anche dire che alcuni telefoni, via software, quando ci dicono che la batteria è carica al 100%, in realtà non lo è, proprio per questo motivo. Cioè sono i telefoni stessi che, per preservare la vita della batteria, ci dicono: guarda che la batteria è carica, in realtà non lo è, noi lo stacchiamo, siamo tranquilli, ma abbiamo fatto quello che dovremmo fare, cioè non ricaricarla mai al 100%. Io che ad esempio lo carico tutte le sere prima di andare a dormire, lo metto in carica, sbagliatissimo. Allora, anche qui sbagliatissimo. Ricordiamo che probabilmente la vita della tua batteria è molto più lunga della vita del tuo smartphone, che dopo 2, 3, 4 anni cambierai. Quindi, certo, uno dovrebbe porre attenzione a come utilizza la batteria, però tendenzialmente uno degli errori, comunque, non fa molto bene allo smartphone, stiamo parlando di batteria al litio, perché tutte le batterie sono al litio, non fa bene lasciarlo in carica perennemente, quindi per molte ore. È anche vero che sempre via software, perché il software ha un ruolo fondamentale nella gestione della carica e dello scarico del telefono, il software si preoccupa di bloccare, in alcuni telefoni, non in tutti, di bloccare la ricarica quando è al 100%. Però è vero che il telefono, mentre acceso, un po' consuma, quindi consuma, si ricarica. Esatto. Quindi, senti, Enrico, io spesso... Però mica soprattutto... ti puoi svegliare di notte. No, mi sveglio, ma non per quello. Capisco, esatto. Spesso, soprattutto su Instagram, confesso, ci sono delle pubblicità di app per il consumo della batteria. Servono? Dunque, mica tanto. Allora, una delle cose da tenere sott'occhio è la temperatura. Domanda. Ecco. Io ho avuto l'impressione che quest'estate il mio telefonino e soprattutto il mio tablet si scaricassero di più. C'entra? L'alta temperatura, e per alta temperatura intendo anche i 40 gradi, un po' quando abbiamo la febbre alta. 40 gradi, il telefono già comincia a non essere molto contento. Figuriamoci se la temperatura è ancora più superiore. E se uno lascia il telefono in automobile, anche mentre è alla guida, e sul telefono ci batte il sole, la temperatura sale tranquillamente a 50-60 gradi sulla superficie e anche sulla batteria. Questo fa malissimo, forse è la cosa che fa peggio in assoluto alle batterie. Quindi dovremmo cercare di... Capisco che se siamo in spiaggia, certo, non è che possiamo fare un buco e metterlo sottoterra. Questo effettivamente, oppure prendere il termos, termos e metterlo... Va detto che non fa nemmeno bene il freddo, però delle due fa peggio il caldo che il freddo. E quindi questo è un altro consiglio, cioè cercare il più possibile di tenere il telefono in condizioni di temperatura inferiori ai... sarebbe meglio 30 gradi addirittura, insomma, però capisco che è d'estate, però adesso andiamo verso l'inverno, quindi questo non è sicuramente un problema. Enrico, ti ho deviato sull'estate, ma ti avevo chiesto delle app, ti chiedo solo un attimo di pazienza. Rispondo fra poco. Viabilità, io vado a staccare il telefonino che ce l'ho sotto carica, adesso mi hai fatto venire l'ansia. Brava. E ci ritroviamo tra qualche istante. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il sabato del villaggio. Sono andata a staccarlo lo smartphone, è qua, se lo bellissima. Sentite, ecco. Allora, dicevamo dell'app prima sì, di chiudere, delle allora, app. A meno che non siate dei fanatici, io direi lo sconsiglio, anche perché, attenzione, qui stiamo parlando di una categoria con decine, se non centinaia di app. Molto spesso chi vuole raccogliere informazioni fa delle app magari sicuramente gratuite che ti dicono ti faccio prolungare la batteria e mentre tu accetti le condizioni all'inizio magari accetti anche di dare il tuo numero di telefono, dare altro tipo di cose. Ecco, un metodo fantastico per raccogliere informazioni a fronte di un'app che magari serve molto poco o comunque fa quello che già fanno i telefoni. Negli ultimi anni i telefoni si sono evoluti molto. Concludo parlando di aggiornamento software, perché come avete capito la gestione della batteria è fatta in buona parte dal software e i software aggiornati tendenzialmente, soprattutto i sistemi operativi, versione dopo versione, sono più capaci di risparmiare la batteria e quindi è un ulteriore motivo per tenere i telefoni aggiornati. Fantastico, grazie Enrico. Io ricordo il podcast di 2024 e dico a Mauro da Catania che sì, parleremo di Windows Phone. Ne parleremo, Enrico, lo promettiamo a Mauro da Catania. Grazie Enrico Pagliarini, noi adesso parliamo di cinema. Ciao! Dove siete? Dori! Dove eravate? Sei tu che sei sparita? I miei genitori, me li ricordo! Cosa? Che cosa ti ricordi? Mi sono ricordata la mia mamma, il mio papà! Ho una famiglia! Oh, loro non sanno dove mi trovo! Dobbiamo Dori, andare! No, no! È una pazzia! Dove vorresti andare esattamente? Alla Gemma del Baltico! Il gioiello di Morrobay in California! Sì! No, Dori! La California è dall'altra parte dell'oceano! Allora sarà meglio morti! Questo era un brevissimo estratto di Alla ricerca di Dory, una delle uscite di questa settimana, attesissimo, ma vale la pena andarlo a vedere. Lo chiediamo come tutte le settimane al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora si va a vedere Alla ricerca di Dory? Sì Marta, grazie a tutti gli amici in ascolto. Sì, cominciamo dal pesce Dory, insomma, uno dei personaggi più azzeccati di tutta l'epopea Disney recente, perché quando uscì Nemo, tutti si innamorarono, sì, certo, di quella storia straordinaria, ma anche di questa pesciolina con problemi di memoria a breve termine, per la precisione. E in Disney, in Pixar, hanno avuto chiaramente l'idea da subito che quello poteva essere un personaggio da seguire un domani per un nuovo film. Ed è quello che sta succedendo, appunto, con Alla ricerca di Dory, dove a metà fra sequel e spin-off si segue, appunto, dopo un inizio, un flashback che ricorda come la piccola Dory si è smarrita dai suoi genitori, si segue la sua ricerca, appunto, e il suo ennesimo attraversamento dell'oceano verso, appunto, i genitori da ritrovare, con la sarabanda di amici che conosciamo. Un film che ancora una volta ci rivela la grande capacità, la grande maestria della Pixar, non solo nell'animazione ma anche proprio nella narrazione, nella capacità di narrare, di veicolare il sentimento, l'emozione attraverso i suoi personaggi, sicuramente, come dire, forse qualche fragilità soprattutto nella parte centrale del film, ma anche con tutte quelle gag e anche quella capacità di guardarsi dentro, di introspezione, che mettono come sempre d'accordo tutto il pubblico, quello dei bambini e quello degli adulti. Per cui sicuramente Alla ricerca di Dory il film della settimana. Franco, uscite italiane questo fine settimana? Tanto cinema italiano in questo fine settimana, l'estate addosso di Muccino, ma io voglio soffermarmi su questo film invece di Giuseppe Piccioni, che si intitola Questi giorni. Sono due film che hanno qualcosa in comune, cioè il desiderio di raccontare due diversi step di superamento di una stagione della vita, giovane per entrare in un'altra, Muccino con il momento della maturità, Piccioni con un momento che sta un po' più in là, quando si è diventati giovani adulti con l'università, la storia di quattro amiche che intraprendono un viaggio verso Belgrado per accompagnare, diciamo così, ufficialmente una di loro che va lì a lavorare, ma poi forse per riscoprirsi nei rapporti fra di loro, nella capacità di cercare dentro di loro anche rispetto a quello che è l'universo maschile, e forse per cercare di uscirne. Il tentativo è quello, con le idee più chiare su cosa fare da grandi, poi non sempre le cose riescono. Mi è piaciuta molto Marta in questo film, la mano di Giuseppe Piccioni, che dimostra, dopo aver raccontato la scuola quasi con un tonno anche di commedia amara, con il rosso e il blu, dimostra sempre anche una sensibilità in questo film che è assolutamente più plumbeo. Saranno le atmosfere limacciose di questo viaggio verso Belgrado. Fatto sta che anche grazie a una compagnia di attrici giovani e molto brave, il film, a mio modo di vedere, è riuscito e ci regala, ci ritorna, ci restituisce un autore di grande sensibilità. C'è poi questo fine settimana una bella uscita musicale, diciamo un'uscita che riguarda proprio la storia della musica. E per tutti quelli che non c'erano quando i Beatles spopolavano in tutto il mondo e hanno magari solo sentito raccontare, ormai direi anche dai nonni forse, di quella fantastica epopea degli anni 60, insomma, perché per essere beatlesiani all'epoca dovevi avere tra i 15 e i 20 anni negli anni 60, voleva dire essere nato alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 50, e allora forse oggi si è addirittura nonni, appunto. Però i Beatles sono sempre lì, sono sempre un moloch della musica, del costume, della storia, direi, del mondo. E questa volta Ron Howard, mica paglia, insomma, un regista di grande spessore, racconta la storia dei quattro ragazzi di Liverpool, ed è molto bello perché lo fa con documentazione inedita o quantomeno rara, ma soprattutto lo fa soffermandosi su quegli anni in cui questi ragazzi giravano il mondo come dentro un caleidoscopio, come dentro una trottola, da sballottati da una parte all'altra, suonare, far soldi, ma non perdevano i loro 20 anni, non perdevano quella capacità di scherzare, di ridere fra di loro, di ridere molto per esempio nelle conferenze stampa che si vedono, di essere amici come se quello che le stava succedendo intorno fosse qualcosa che succedeva ad altri, perché in fondo loro erano sempre quei quattro ragazzi di Liverpool. È un film molto bello, che risponde molto alla domanda chi erano i Beatles, alla famosa e fatidica domanda, ma che serve secondo me anche un po' per rimettere in fila le idee a chi i Beatles li ha sempre amati. Un film che si porta dietro una bella e bellissima, direi, sorpresa finale, cioè la mezz'ora integrale del concerto dello Shea Stadium di New York dei Beatles, totalmente rimasterizzata in 4K. Insomma, vi vedete anche un concerto dei Beatles. Però vi ricordo, questo film è fuori solo una settimana, quindi bisogna andarlo a vedere subito. Grazie Franco D'Assisti, appuntamento dunque con te dopo il giornale radio delle 18 alla Rosa Purpurea. Grazie Marta, io voglio solo ricordare ai nostri ascoltatori che oggi alla Rosa Purpurea giocheremo tantissimo, giocheremo con la serie Vinyl per provare a vincerla, giocheremo con Alberto Sordi per mandare una coppia di nostri ascoltatori a Mangia Cinema il prossimo weekend, all'ultimo weekend di settembre, a Mangia Cinema Salso Maggiore, alla cena di gala e per tutto il weekend, e giocheremo anche con i biglietti di Footloose il musical. Quindi restate con noi, telefonino, sms, mail della Rosa Purpurea pronte, perché ci sono veramente tanti premi che vi aspettano. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Il sabato del villaggio. Eccoci con la seconda ora del sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Abbiamo già parlato di tecnologia, abbiamo già parlato di televisione, abbiamo parlato di cinema e abbiamo anche dato uno sguardo alle tendenze in fatto di alimentazione e cibo. Abbiamo parlato di merenda, di caffè con il nostro gastronauta. Sempre 349-238-6666 il numero per i vostri sms e WhatsApp, ma c'è anche il mio account di Twitter, @ Marta Cagnola. Ora scopriamo i temi della seconda ora che passeremo insieme, in attesa poi anche della terza, quella di RadioTube. Allora, continuiamo a parlare delle novità della stagione che si sta aprendo, come nella prima ora e come nel primo appuntamento con il sabato del villaggio. Le novità dei libri, i libri del momento, i libri che dobbiamo aspettarci in questo periodo con Alessandra Tedesco. Torna anche lo spazio dei consumi e delle nuove tendenze con Maria Luisa Pezzali. Questa volta parliamo di tatuaggi. Ma prima, intanto introduciamo l'argomento e l'ospite con un fumetto, anzi con un film ispirato a un notissimo fumetto. Papà! Oh mio Dio! Papà! Chi ha ucciso mio padre? Un lupo mannaro. Un lupo mannaro? Come quelli dei film. Ah, giusto. Tu e l'argento non andate d'accordo, vero? Guardate attorno. I mostri che trovi nei libri sono reali. E sono tra noi. Lupi mannari, vampiri, zombie. Sono dappertutto. Marcus, tu sei uno zombie. Magari è solo influenza. Non dovevi mica spararmi. Dylan! Allora qual è il piano? Non serve un piano, solo pistole più grandi. E siamo dunque in tema di fumetti. Questo era un Dylan Dog cinematografico, ovviamente dannata. Torna di moda Dylan Dog, è il momento di Dylan Dog, è il momento di cosa nei fumetti? E abbiamo il nostro super esperto che ci torna a trovare finalmente anche in questa edizione del Sabato del Villaggio, Emilio Cozzi. Ciao Emilio! Ciao Marta, ciao a tutti, sono molto contento. Ah, io di più, io di più. Chiocciola, addio e grazie per. Allora Emilio, che momento è per i fumetti e perché questo Dylan Dog? Questo è un momento per Dylan Dog, come dire, celebrativo, perché è il 30° compleanno del fumetto inventato, del personaggio inventato da Sclavi, appunto a settembre del 1986, che è una cosa, se ci pensate, è un record che non molti fumetti possono vantare, men che meno con le cifre di Dylan Dog, che per quanto ridotte negli ultimi anni, negli anni 90 sforava tranquillamente oltre 1 milione di copie vendute ogni mese, una cifra davvero da fenomeno culturale e sociale. Ebbene, Dylan Dog proprio questo mese compie 30 anni. E come si festeggiano questi 30 anni? Che a mio parere lui si porta ancora molto bene. Si porta molto bene, si porta benissimo con quella faccia tra Rupert Everett e Claudio Baglioni, perché sono due personaggi che lo hanno, sì, che vero, lo hanno, esatto, che lo hanno distinto. I festeggiamenti iniziano proprio il 26 settembre, quindi settimana prossima, con degli eventi a Milano. Da Piazza Liberty ci sarà un corteo dove appunto gli zombie, che sono un grande apparente, chiamiamolo così, nemico di Dylan Dog, poi se vuoi approfondiamo di quale sia esattamente la nemesi di Dylan Dog, accompagneranno proprio Dylan Dog in persona in questa lunga camminata fino ad arrivare a Milano al cinema Odeon, laddove una buonissima rassegna cinematografica, ovviamente a tema horror, inizierà proprio con La notte dei morti viventi di Romero, capolavoro intramontabile e film, come dire, abbastanza una matrice per ciò che riguarda appunto gli incubi raccontati dall'indagatore dell'incubo in questi 30 anni. Dopodiché, so benissimo, si proseguirà con Halloween con Dylan Dog, una sorta di format, un ciclo dell'orrore che inizierà su Studio Universal dal 7 ottobre, ma soprattutto Dylan Dog prenderà anche vita in un radiofumetto che mi pare ci riguardi molto da vicino. Ci riguarderà Radio 24, ma vi daremo i dettagli più avanti perché andrà in onda dall'inizio di ottobre. Quindi il fumetto sempre appassiona, anche noi insomma stiamo aprendo le finestre sulla nuova stagione degli spettacoli, dell'intrattenimento, delle cose belle, sempre fumetto. Il fumetto vive una fase di grande ricchezza, se non altro dal punto di vista creativo, soprattutto quello italiano, posto che poi occorrerebbe anche qui addentrarsi in cifre di vendita che comunque, per quanto buone, non sono sempre decisamente entusiasmanti. Però sì, vive una stagione ricchissima, ci sono tanti fumetti che anche in Italia, penso a Blatta, penso a Monolith, sempre un altro progetto che riguarda Recchioni, che è il curatore editoriale anche di Dylan Dog, diventeranno presto dei film o comunque delle immagini cinetiche in qualche modo. Quindi è intanto l'apice o uno delle componenti della famosa transmedialità. Ormai tutto è contenuto, come sai benissimo, e come raccontiamo spesso a Sabato del Villaggio, e di sicuro il fumetto negli ultimi anni, basti pensare alla produzione Marvel sconfinata, quella del DC, è ormai entrato nel linguaggio comune, sia con i propri personaggi, con i propri eroi, e di questo anche abbiamo già parlato molte volte. E io credo che sia un fenomeno, non dico agli inizi, ma come dire, abbiamo appena iniziato a viverne una nuova ondata che proseguirà al cinema per altri 5 anni con produzioni edizioni già annunciate numerosissime e che sicuramente proseguirà anche in libreria e in edicola, perché poi il fumetto d'autore spesso e volentieri si trova tra tutte e due le sedi, diciamo. Tu cosa attendi in particolare, visto che hai parlato di molti film che sono già quasi pronti o in lavorazione? Cosa ti aspetti in particolare? Io aspetto due cose. Beh, intanto il numero di Dylan Dog che ce ne dico, la Mater Dolorosa, appunto scritto da Recchioni e Gigi Cavenago e da loro anche illustrato, e poi il numero successivo, il 362, si intitolerà Dopo un lungo silenzio, sarà in edicola dal 29 di ottobre, e attenzione perché segnerà il ritorno dopo 9 anni di assenza del papà di Tiziano Sclavi alla sceneggiatura del suo figlio, del suo figlioccio di carta. Mentre al cinema aspetto con grandissima attesa I Guardiani della Galassia 2, che è un film anche per Disney diventato molto importante, perché lo stesso gruppo Disney non si aspettava il successo clamoroso del primo episodio, e io devo essere sincero, nemmeno, ma quando ho visto il film al cinema, insomma, mi ha impressionato dal punto di vista narrativo, dal punto di vista della ritmica narrativa, che è eccellente, dal punto di vista dei personaggi sono azzeccatissimi, e devo essere sincero, secondo me Disney con I Guardiani della Galassia ha in mano, non dico un secondo Guerre Stellari, ma insomma un fenomeno che in quest'era potrebbe veramente fare tanti soldi e tanti seguaci quanto quello. Per cui ecco, queste tre cose, tu me ne hai chieste due, te ne dico tre: Mater Dolorosa, Dopo un lungo silenzio, e appunto di sicuro I Guardiani della Galassia 2. Emilio, ti chiedo solo un attimo di pazienza, perché poi voglio parlare anche di videogiochi. Dopo il traffico ti chiedo un po' di cose sulla nuova stagione e sulle nuove manie dei videogiochi. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Ve la ricordate questa, che era la musichetta del gioco dei Pokémon? Perché noi abbiamo parlato con Emilio Cozzi, il nostro super esperto di videogiochi, di fumetti, di tutte queste cose super carini. Chiocciola Addio e Grazie Per è il suo account di Twitter, così lo trovate, trovate anche tutto quello che scrive su un sacco di riviste, anche da noi sul Sole 24 Ore. Avevamo parlato con lui prima della sospensione del Sabato del Villaggio per l'estate, per la mania dei Pokémon. Emilio, si gioca ancora Pokémon o un po' meno? Io ho un po' smesso. Brava, è come te il 77% degli utenti. Il 77%, esatto, esatto. Si è sgonfiata la bolla, oddio, era diventata così grossa che, come dire, anche una piccola percentuale è comunque un fenomeno che coinvolge una marea di gente. Pensa addirittura che quest'estate sono verificati fenomeni di turismo legati alla ricerca di dei Pokémon più rari. Io stesso ho visto, ero a Los Angeles pochi giorni fa, ho visto centinaia di persone correre in spiaggia a Santa Monica perché era comparso improvvisamente un Pokémon di quelli tra i più rari. Detto questo, nonostante appunto le cifre comunque ancora impressionanti, la maggior parte, tre quarti degli utenti, mi risulta, si stanno piano piano disaffezionando a un fenomeno che evidentemente o non è stato ben gestito, o forse ha avuto una risonanza e un effetto più in là anche delle strategie di chi l'aveva inventato e programmato. Allora adesso su cosa si punta? Sempre su app analoghe? Dai, dimmi un po' quali sono le tendenze del videogioco, anche perché dobbiamo capire, guarda, di cosa innamorarci adesso. Io appunto dei Pokémon mi sono un po' stancata. E adesso allora sta arrivando una bomba, perché tu, come sai e come spesso sei costretta a parlare con me di realtà virtuale, ebbene a ottobre, esattamente il 13, uscirà la famosa mano di Sony nell'ambiente virtuale, vale a dire PlayStation VR, i primi, chiamiamoli così, occhialoni di realtà virtuale per una console casalinga, a un prezzo abbordabile, sono circa 399-400 euro, quindi, oddio, non certo una cifra bassa, ma nemmeno quei 2000 euro che costano i vari HTC Vive o Oculus Rift, compreso anche ovviamente il PC per farli funzionare, e quindi una realtà virtuale, un visore per realtà virtuale, che potrebbe essere davvero il primo ingresso, questo almeno si augura sia Sony che si augura anche la marea di sviluppatori che sta dedicandoci, sì, potrebbe essere davvero il primo biglietto d'ingresso di tanta gente a questo universo parallelo, appunto virtuale, che non esiste senza questi dispositivi, ma che una volta indossati invece esiste, è quasi tangibile, dice pure a 360 gradi, e cambierà radicalmente il nostro approccio, come dico spesso, non solo per l'intrattenimento e per il videogioco, ma potenzialmente in tantissimi ambiti diversi, dalla medicina alla didattica. Ebbene, il 13 ottobre uscirà PlayStation VR, e con quello usciranno una serie di giochi appunto dedicati alla realtà virtuale. Cosa dobbiamo possedere intanto come hardware? come hardware in questo momento basta l'ultima versione di PlayStation, per cui la PlayStation 4. Ciò detto, proprio poche settimane fa, Sony ha fatto un keynote, un meeting a New York, laddove ha presentato, non una sorpresa perché si sapeva, ma a sorpresa rispetto alla data di uscita, cioè che sarà a novembre, una console 4 potenziata, una sorta di console, una via di mezzo tra la generazione corrente e quella che ci sarà, chissà, magari sarà la prossima, più potente, che gestisce segnali nativi in 4K, oppure si dice upscala, cioè in qualche modo fa diventare più belli, perdonatemi la banalità, ma sarebbe un po' più complesso, i giochi che non abbiano quel tipo di qualità visiva, li rende migliori ed è più potente proprio per gestire la realtà virtuale, perché comunque la realtà virtuale ancora richiede una quantità di calcolo maggiore rispetto a un gioco tradizionale, che pure ne richiede tantissima. E appunto in questo momento basta una PlayStation 4 con dei giochi evidentemente compatibili e fatti per la realtà virtuale, e io per esempio proporrei, pronti via, visto che adopera fumetti, poco fa, un Batman programmato proprio, Arkham programmato proprio per la realtà virtuale, quindi non solo andare a Gotham City sul proprio schermo, ma entrare a Gotham City con i propri occhi, con la propria testa. Voi immaginate di essere appunto nella città con il buon Cavaliere Oscuro, girarvi e vedervi attorno la città che vede lui, forse in alcuni casi addirittura essere calato nei suoi occhi. Giocarci di notte, direi. Fidatevi per quanto esperienza ti personale. Conosco, Emilio, quanto ti conosco, che so che poi ci perdi le notti. No, sì, ci perdo notti, anche perché, ecco, uno degli aspetti, se vuoi anche insomma da discutere, è che con indosso questi visori davvero veniamo calati in un altrove che non esiste, un altrove che non ha neanche, come dire, riferimenti temporali e spaziali di quello che ci circonda sul serio, per cui è molto facile perdersi negli universi virtuali e rendersi conto dopo 10 ore che non siano trascorsi 5 minuti, appunto, ma ben più tempo. Ecco, io credo proprio che questo sia l'appuntamento clou del mese, ce ne sono tantissimi altri, uscirà un nuovo Tomb Raider, Tomb Raider ancora? Sono più di 20 anni che c'è. Sono più di 20 anni che c'è stata una sorta di reboot recentemente, come succede al cinema, anche nel videogioco, essendoci tantissimi soldi in ballo, spesso si tende a rifare qualcosa di già visto, perché garantisce degli incassi di sicuro più che non l'improvvisazione, ma in questo caso, devo essere onesto, il franchise ha avuto un ottimo reboot, perché abbiamo una Lara Croft molto più umanizzata, più giovane, ci stanno raccontando la sua storia pregressa e estremamente empatica. Sono giochi francamente consiglio, perché peraltro, non dimentichiamolo, hanno come protagonista una ragazza, che non è un fenomeno così frequente nei videogiochi, per quanto grazie al cielo ultimamente stia cambiando anche questo cliché. Posso farti una domanda così, prego, priva di poesia? Quanto ci costa giocare in questo modo? In questo caso, per ciò che riguarda la piattaforma di Sony, occorre comprare, nel caso in cui uno compri la console che c'è già in giro, la PlayStation 4, quindi o la si trova usata nei rivenditori ufficiali oppure la si compra nuova a 299 euro, più gli occhiali che costano 399. Se uno volesse fare l'upgrade, diciamo, cioè acquistarsi la versione nuova, che appunto sia a novembre, deve spendere 100 euro in più. Se invece volesse fin d'ora acquistare, diciamo, il top di gamma in quanto a realtà virtuale, sarebbe costretto a comprarsi o un Vive, cioè il visore di HTC, oppure un Oculus Rift. Lì le cifre si alzano di 1-0, nel senso che, compreso il computer adatto per farli funzionare al meglio, occorre spendere circa 2000 euro per ciascuno. Non è esattamente una cifra, esatto, ecco, abbordabile a tutti. Ecco. Però vi assicuro che potendone disporre, o comunque essendo molto interessati, anche perché, come dicevo prima, si possono vedere degli orizzonti che non riguardano solo il gioco, solo l'intrattenimento, ecco, io devo dire che ne vale la pena. Ti chiedo ancora qualche segnalazione di gioco da non perdere, che sia arrivato o che stia per arrivare, Emilio? Appena arrivato, per i fanatici di sport, appena arrivati due titoli, anzi tre titoli sportivi che sono poi quelli più giocati dagli italiani. Punto primo, FIFA, la nuova simulazione calcistica di Electronic Arts, che è il gioco che in assoluto in Italia, e evidentemente non sorprende nessuno, vende di più ogni anno. Il nuovo NBA 2K17 è pazzesco, perché permette di calarsi in un personaggio, in un videogiocatore che addirittura può riprodurre le nostre fattezze con un sistema, una telecamera che scansiona proprio il nostro viso e può riprodurlo sui giocatori, per cui seguire un giocatore che dal liceo addirittura va alle Olimpiadi e poi debutta in una squadra dell'NBA, e poi io ci infilerei, per mio personalissimo gusto, Madden, il nuovo simulatore di football americano, uno sport non seguitissimo in Italia, che però nella sua versione digitale è sempre un gioco eccelso, perché riproduce addirittura non solo gli impatti in maniera verosimile, ma le carriere dei franchise, le carriere di vecchie squadre gloriose. E in più, fatemelo dire con un certo orgoglio, fossimo invece dei fanatici di corse automobilistiche, io suggerirei un titolo italiano, si chiama Assetto Corsa. Mi piace quando mi parli, esatto, degli sviluppatori italiani. Anche perché sono pochi, alcuni molto bravi e hanno bisogno assolutamente, soprattutto quando fanno, certo, ottimi lavori. Esatto, Assetto Corsa, un gioco, un simulatore appunto di guida, è già famoso nella sua versione da PC, addirittura ha venduto 500.000 copie, una cifra francamente altissima, e adesso a fine agosto, appena uscito appunto su console, quindi Xbox One e PlayStation 4, garantisce divertimento e spasso per tutti i fanatici delle gare, delle automobili, insomma. Davvero ben fatto, un approccio simulativo, quindi non per tutti, difficilissimo da guidare, verosimile negli impatti, insomma, però anche in questo caso sono già promessi dei piccoli miglioramenti che permetteranno anche a chi ama un approccio un pochino più, diciamo, leggero d'arcade, di divertirsi altrettanto. Ultima domanda, visto che ti ho chiesto un po' per tutti, per quelli invece come me che amano giocare con le app, c'è qualcosa, guarda, di nuovo? Noi che ci siamo stancati appunto dei Pokémon. E invece ti dirò, dai ancora un po' di fiducia ai Pokémon. Ah, perché va bene, do ancora un po' di fiducia. Esatto. Non li disinstallo. Assolutamente sì, uscirà questo device promesso tempo fa e mai visto, che permetterà tramite un orologio di controllare i Pokémon in zona e, come dire, avere un approccio alla caccia un po' diverso, meno invasivo ma altrettanto curioso. Tenete presente che giochi di quel tipo, e Niantic, cioè lo sviluppatore che appunto ha creato questo fenomeno, arrivava da Ingress, che è un gioco simile, laddove non c'erano semplicemente i Pokémon ma si girava per la città a conquistare delle zone sotto una sorta di presidio fantascientifico che alla narrazione del gioco aveva inventato. Ebbene, non dimentichiamoci che sono giochi che sono destinati a durare. Io immagino e sono abbastanza certo del fatto che piano piano inventeranno e aggiungeranno delle implementazioni di gameplay che renderanno il gioco ancora vivo e ancora affascinante. Allora, la prossima volta ti informo, sì, se ho ricominciato a giocare con i Pokémon oppure se mi è rimasto l'entusiasmo basso e quindi non l'ho più riaperto, perché dopo un po' effettivamente poi sai questi problemini in cui appunto dicevi non si capiva bene dove erano quei bug che ci avevi preannunciato, era tutto vero, ci avevi già detto tutto. Emilio, ci avevi già detto tutto, è per questo ti ospitiamo, perché tu sai tutto. Non esageriamo, non è assolutamente vero, so pochissimo, però insomma quel pochissimo l'avevo verificato ed è vero, il gioco ha avuto grossi problemi soprattutto nelle fasi iniziali, addirittura a un certo punto era impazzito questo fenomeno per cui software aggiuntivi, anche come dire fatti in casa, aiutavano a truccare la competizione, per cui c'erano mappe, c'erano radar eccetera eccetera, dopodiché invece lo sviluppatore originale tra virgolette ha tagliato i ponti, ha blindato il suo sistema, anche perché altrimenti sarebbe diventato sempre più pesante da gestire e soprattutto avrebbe rovinato la competizione. Ripeto, io credo che i buoni Pokémon abbiano ancora qualche palla da lanciare, qualche megaball da lanciare. Esatto, esattamente. Grandissimo, grazie Emilio Cozzi, chiocciola, addio e grazie per, così se lo cercate su Twitter vedete anche tutte le cose straordinarie che scrive e che segue. Grazie Emilio, alla prossima. Grazie a voi Marta, a presto. I'm being serious. What do you call love? Lou Reed, non solo perché Lou Reed fa sempre bene al cuore, all'anima, ma perché questa Turning Time Around è la canzone dei titoli di coda che Laurie Anderson, compagna per tantissimi anni di Lou Reed, ha scelto per il suo film Heart of a Dog. In questi giorni Heart of a Dog è stato nei cinema italiani. in circolazione c'è la colonna sonora favolosa di questo Heart of a Dog. Abbiamo incontrato Laurie Anderson a Milano e così vi anticipo che l'intervista andrà in onda domattina dopo il GR24 delle 8 in 140 caratteri. Mi faccio un po' di autopromozione, ma ne vale la pena perché davvero Laurie Anderson è un personaggio straordinario, e poi anche per ascoltare qualche nota insieme di Lou Reed, che appunto ci fa sempre tanto tanto tanto bene. Ci ritroviamo tra poco ancora con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E lo so che quando parliamo di videogiochi gli ascoltatori si scatenano, perché è un tema che piace molto, non solo a me, non solo per le app, che appunto ho deciso di non disinstallare i Pokémon grazie al consiglio del nostro Emilio Cozzi, chiocciola addio, e grazie per... Ci dicono FIFA 17, torna FIFA 17, non ci ho mai giocato, però mi fido, so che è molto molto famoso. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e anche WhatsApp. Proprio via WhatsApp un ascoltatore ci chiede di ripetere il gioco di simulazione guida di sviluppatore italiano di cui ha appena parlato il nostro Emilio Cozzi, è Assetto Corsa. Mi piace sempre molto, l'ho detto, parlare degli sviluppatori italiani perché fanno delle belle cose, sono delle belle storie di successo. Al Sabato del Villaggio parliamo di tanti argomenti, abbiamo parlato di televisione, appunto videogiochi, fumetti, tecnologie, ma ci sono ancora due pagine da aprire per questo sabato pomeriggio prima della terza ora del Sabato del Villaggio, che è quella di RadioTube, la pagina dei consumi e delle nuove tendenze che apriremo dopo la viabilità delle 16.45, e ora subito parliamo di libri. Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te. Una brocha de pintura prefiero y dibujar en color lo que siento. Complicaciones sí, aburrimiento no. Y te quiero decir que no me siento solo. Tengo mi familia aquí, quiero ser piloto. Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco. Tengo el lujo de elegir todo poco a poco. Sí, va, cuéntamelo. Prima o no. Allora, Alvaro Soler. Perché Alvaro Soler? Perché sarà ospite di RadioTube, nuovo giudice di X Factor che è ricominciato questa settimana. In RadioTube avremo Alvaro Soler dal vivo. Io lo adoro, sono molto contenta. Ma c'entra qualcosa anche col nostro spazio dei libri? Sì, perché partiamo con la Spagna, Alessandra. Io stavo ballando, pensavo fosse stata messa per me questa canzone solo per fosse... ballare. Ma perché no? Ma perché no? Ma quanto è carino Alvaro Soler, quanto è carino questo pezzo. Ma Spagna, dove Spagna ci porti? Ciao Alessandra. Sta veramente, come dire, è la scrittrice, lo dico sempre, ormai è una frase fatta, la scrittrice spagnola più amata dalle italiane. E lei, Clara Sanchez, con il nuovo libro arrivato in libreria. A chi lo consigliamo? Diciamo prima chi lo consigliamo e poi diciamo di che cosa parla. Perfetto. Va, facciamo un'inversione così, di tendenza. Per donne e uomini, direi dai 25 anni in su, uh-huh, appassionati di misteri e di sentimenti. Già hai detto donne e uomini, quindi per sì, tutti. Sì, è per tutti. Bene, è per tutti. Non mi piace tanto fare la distinzione. È vero, Clara Sanchez piace più al pubblico femminile che maschile, però questo è il sequel del famosissimo Il profumo delle foglie di limone, che solo in Italia aveva venduto 1 milione di copie, aveva avuto un successo incredibile. Si intitola Lo stupore di una notte di luce, pubblicato da Garzanti. Pensa che ha deciso di pubblicarlo prima in Italia e poi in Spagna. Ah beh, ma anche Alvaro Soler è più famoso in Italia che in Spagna, quindi magari anche Clara Sanchez, non lo so. Clara Sanchez, beh, in Spagna ha vinto i 3 premi letterari più famosi, è come se da noi avesse vinto, non so, lo Strega, il Campiello e un altro premio, quindi è molto quindi famosa e apprezzata dai critici anche lì, però devo dire che è molto legata al nostro paese. Allora, di che cosa parla questo libro, Lo stupore di una notte di luce? Abbiamo detto già il sequel del Profumo delle foglie di limone. Nel Profumo delle foglie di limone c'era una donna, Sandra, che andava in vacanza nelle coste spagnole e incontrava una coppia apparentemente di vecchietti carini e simpatici. In realtà lui era stato un nazista che aveva, insomma, commesso dei reati piuttosto gravi. In questo sequel si ritrova ancora Sandra e Julian, che è un anziano sopravvissuto a Mauthausen, che era presente anche nel primo libro, che dà la caccia ai nazisti. Questa volta Sandra trova nella cartella del figlio, che va all'asilo, un biglietto con uno strano messaggio dove c'è scritto: dov'è Julian? E qui si capisce che forse lui è in pericolo, e quindi da qui inizia siano i misteri, insomma tutta la narrazione alla Clara Sanchez. Domanda tecnica come sempre, domanda che ti faccio sempre quando si tratta di un sequel: si può leggere senza aver letto il primo? Ni. Nel senso che si apprezza di più se si è letto Il profumo delle foglie di limone. Il libro, assolutamente, il romanzo regge, è a sé stante, però voglio dire, se non avete letto Il profumo delle foglie di limone, leggetelo perché è molto bello e a questo punto ci si ritrova con gli stessi personaggi. Beh, vale la pena, quindi. Allora, invece, un altro consiglio per un'altra categoria di lettori, un'altra classe di lettori. Storia d'amore che può essere letta dagli adolescenti, ma anche dagli adulti. Te lo faccio sentire? È ritornato il libro copertina rigida per Non aspettare la notte, Valentina D'Urbano, pubblicato da Longanesi. Lei è la scrittrice romana che era diventata famosa con Il rumore dei tuoi passi. Era una storia d'amore ambientata in una borgata, si diceva romana, in realtà era una città immaginaria, comunque in periferia. In questo nuovo romanzo, Non aspettare la notte, c'è anche qui una storia d'amore. C'è Angelica, che è una ventenne, che però poverina è rimasta sfigurata in un incidente stradale. La mamma si voleva suicidare, purtroppo l'aveva portata con lei in auto, la madre era morta e invece lei appunto rimane piena di cicatrici interiori ed esteriori. Tommaso invece, poverino, anche lui ha una malattia degenerativa che gli farà perdere la vista, quindi lei è piena di cicatrici e non vuole essere vista e Tommaso sta perdendo la vista. Indovina un po', si incontrano. Ne nasce una storia d'amore, però devo dire, non melensa come quelle che sì, perché magari il punto di partenza mi ricorda così, sì, alcune io prima che vanno... di te, io dopo di te, eccetera, quelle storie d'amore con magari una persona portatrice di handicap o disabile. Però qui la scrittura della D'Urbano è sempre abbastanza secca, nitida, non è melenso, ecco. E quindi una bella storia d'amore. Una storia d'amore e una storia anche, come dire, di coraggio, di voglia di cambiare, di voglia di veramente spaccare il mondo. E quel librone che hai davanti a te, grosso, con un sacco di pagine? È grosso perché è, come dire, piccolino, un formato particolare. Ah, perché come io l'avevo visto di lato, è molto alto, però le pagine sono piccine. Eh sì, perché tutti i libri iperborea si riconoscono perché sono stretti e lunghi e quindi molto alti, sono più di 500 pagine, in realtà se avesse un formato normale ne sarebbe circa 300, insomma. A me piacciono tanto e ogni volta li tiro un po' avanti in libreria perché non voglio che si infilino in fondo. Allora, iperborea in genere traduce gli scrittori del nord Europa. In questo caso ha tradotto Kader Abdollah, il romanzo si intitola Un pappagallo volò sull'Isel. Secondo te Kader Abdollah è un nome olandese? Beh, un nome nuovo olandese. Un nuovo olandese, decisamente, ecco. Sì. Infatti è uno scrittore iraniano che da tantissimi anni si è trasferito in Olanda, è andato in Olanda come profugo. È stato accolto, ha ricevuto asilo politico e lui adesso scrive solo in olandese, per cui lui la considera l'olandese come la lingua della libertà. E in questo libro, come spesso fa nei suoi romanzi, Kader Abdollah, che tra l'altro è uno pseudonimo, racconta la storia, un romanzo corale negli anni 80, alcuni paesini olandesi dove arrivano i primi profughi. All'inizio vengono accolti in maniera molto positiva, poi con il tempo si iniziano ad avvertire delle frizioni e diciamo che forse il personaggio principale è Mehmed, questo iraniano che arriva in Olanda con un passaporto falso, lo fa perché vuole salvare la figlia è malata di cuore, quindi spera che in Olanda ci possano essere delle cure. Purtroppo non ci saranno, ve lo dico perché si capisce anche abbastanza all'inizio del romanzo, però poi si seguiranno tutte le sue vicissitudini e le vicende di altri profughi in questi piccoli paesi olandesi a partire dagli anni 80. A chi lo consigliamo, Alessandra? Guarda, io lo consiglio un po' a tutti, a partire veramente dagli adolescenti, a chi vuole capire anche che cosa sta accadendo adesso in Europa con questo nuovo fenomeno migratorio, perché è facile considerare queste persone come numeri, no? Dire sono arrivati 300, 400, 1000, 5000 profughi, però dietro questi numeri ci sono delle persone e questo romanzo fa capire che ogni persona ha veramente un suo mondo pieno di sentimenti e pieno di vita. A proposito di sentimenti e di vita, vedo che davanti a te hai un libro che mi ricorda tante cose. Nostalgia. Perché si torna a parlare di Bar Sport? Perché Bar Sport, il libro di Stefano Benni forse più famoso, compie 40 anni. Quindi io lo dedico ai 40-50enni nostalgici. È stato ripubblicato adesso da Feltrinelli appunto per il suo compleanno con una breve nuova prefazione che, guarda, ti leggo proprio le prime due righe perché sono fantastiche. Stefano Benni scrive: quasi tutti sanno che Bar Sport non è il mio libro preferito. Bel modo di iniziare una prefazione, dirà qualcuno, ma è l'unico modo leale. Poi vabbè, va avanti. E Bar Sport è un libro, diciamo, molto comico, parla di alcuni personaggi in un bar immaginario della provincia italiana, quindi ci sono diversi personaggi, la Luisona, leggendaria Luisona. Ha tratto anche un film. Poi c'è il ragioniere che è innamorato della cassiera, il vecchietto in giacca e cravatta che fissa questo televisore spento. Insomma, ci sono tutti i personaggi di Stefano Benni, ma lui nella nuova prefazione spiega perché questo Bar Sport non è il suo libro preferito, ma capisce perché può piacere tanto agli altri, al suo pubblico, e quindi insomma ha deciso di ripubblicarlo in onore di questo 40esimo. Allora, tu hai detto che lo consigli ai 40-50 anni nostalgici. Io devo dire che lo regalerei anche a qualcuno più giovane che magari non sa chi è e o cos'è la Luisona. Questa è bella, la Luisona, giusto, perché magari ci sentono dire la Luisona, abbiamo chissà dei riferimenti culturali diversi, chissà. E quindi sì, hai ragione, guarda, cambiamo categoria, invece dei nostalgici 40-50 anni che magari l'hanno già letto, facciamo dai 15 ai 25, via. Ecco, così anche loro possono entrare in questo universo. Scendiamo ancora d'età perché c'è ancora il tempo per il consiglio per i bambini e ragazzi. Non mancano mai nel nostro appuntamento del sabato del villaggio con i libri, e c'è il Geronimo Stilton, Marta, c'è Geronimo Stilton, io ne parlo sempre perché io faccio sempre la rubrica testato per voi, l'ho testato come sempre sui miei nipotini di 9 anni e mezzo, adesso ne hanno quasi 10, sono due gemelli, Davide e Luca, ciao Davide e Luca. È uscito il 10° viaggio nel regno della fantasia, pubblicato da PM. Allora, genitori, zii, persone che dovete fare un regalo ai bambini, state attenti, non fate confusione, perché questo è il 10° viaggio nel regno della fantasia, da non confondere con la serie Grande Ritorno nel regno della fantasia. Oh, accidenti. Perché ci sono personaggi e situazioni diverse. In questo qui, nel 10° viaggio, quindi contate bene i numeri che hanno i vostri figli, insomma i vostri nipotini, c'è sempre naturalmente il regno della fantasia in pericolo, ci sono vari personaggi, lotta bene e male, e ci sono il profumo della fantavaniglia e la puzza di galeone nero. Tu devi, come dire, strisciare, proprio sto facendo il gesto, strisciare le pagine, e senti veramente una puzza terrificante, posso dirlo. Eh beh, se la puzza di galeone nero sarà terribile. Puzza di galeone nero, però Geronimo Stilton piace sempre tanto ai bambini, quindi, però mi raccomando, non sbagliate numero, perché le serie sono diverse e i bambini veramente farebbero età, un macello. Età? Guarda, secondo me Geronimo Stilton, se viene letto dai genitori, già dai 5 anni va bene, fino ai 10-11. Perfetto. Anche 12, via. Ultimo consiglio, quello del cacciatore di libri. E come sempre, per chi si sveglia presto il sabato mattina alle 6:30 e invece per tutti gli altri alle 22 in replica, stasera abbiamo la vincitrice del premio Campiello, Simona Vinci. Perfetto, grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci a tutti. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di aprire l'ultima pagina prima dell'appuntamento con RadioTube, è quella dei consumi e delle nuove tendenze. Ehi, hey, vi presento il mio collettivo, li odio tutti questi sfigati. TRS-80, Kit, Rubik, il mio amico Glick. Ehi, hey, questo qui fa certe merde di tatuaggi belli, no? Dico, è un genio, fa i tatuaggi più stupidi. È suo, il mio colonnello Sanders. Guarda qua, bello epico, eh? Fa schifo, mica mi piace, eh? Perché me lo sono fatto fare? Non lo volevo su di me. Lo adoro io. È di quando è morto nonno. Hit the road. E abbiamo capito da questa clip di Zoolander 2 che siamo in tema di tatuaggi. Saranno quindi tatuaggi l'argomento del nostro spazio dei consumi, delle nuove tendenze, dello spazio in cui ritroviamo finalmente Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, ben trovata, un saluto a tutti. Parliamo di tatuaggi. Tu hai tatuaggi? No. Neanch'io? No. Vabbè, magari in questo approfondimento ci convinciamo, non allora, lo so. Non lo so, io non ho il coraggio e non ho l'età, anche se dicono insomma che sono trasversali assolutamente per età, io mi sento non titolata, ecco, da questo punto di vista. Ma lo sapevi, Marta, che noi italiani siamo tra i più tatuati in Europa? Avevo il dubbio guardando i calciatori, questo dubbio mi veniva. E anche le spiagge reduci da quest'estate, insomma, se ne vedono veramente tantissimi, 7 milioni di persone, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità. E poi, secondo te, più donne o più uomini? Sai che non so, perché anche le donne sono molto tatuate, eh? Secondo me siamo pari. No, no, più donne. Più donne, assolutamente, più donne. Vabbè, insomma, parliamo di tatuaggi, una tendenza certamente non nuova, però come tutte le tendenze, i trend subisce trasformazioni nel tempo. Sicuramente un fenomeno di consumo, lo si vede appunto ogni estate sulla spiaggia, lo si vede anche solo guardando le vetrine di molte città, Marta, dove i centri, gli studi per tatuaggi si sono veramente moltiplicati in questi ultimi anni. E poi anche un fenomeno di costume che può raccontare molte cose dei tempi che in qualche modo stiamo attraversando. Per alcuni il tatuaggio è un credo, una filosofia, per altri un modo per celebrare un amore, una data importante, una nascita. Insomma, c'è tutto un modo anche molto personale di vivere il tatuaggio. Per scoprire tutto del mondo dei tatuaggi si è aperta ieri e si chiude domani al Palavela di Torino Italian Tattoo Artists, una delle convention di tatuaggi più seguite in Italia. Quest'anno è alla 7ª edizione, 300 i tatuatori presenti, alcune sono delle vere e proprie star venerate come maestri, arrivano da tutto il mondo. E allora, per farcelo raccontare, dovremmo essere in collegamento con Nick, che è proprio l'organizzatore di questa kermesse. Buon pomeriggio, Nick. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutti voi in redazione. Buon pomeriggio. Allora, che cosa significa il tatuaggio? Che cosa si vede in questa kermesse? In questa kermesse stiamo vedendo tanta gente. Adesso è vero, abbiamo appena aperto, ma c'è già una discreta affluenza di pubblico al secondo giorno. Si vede gente che di tatuaggi non ne ha uno solo, ne ha veramente tanti. Quindi vuol dire che è un fenomeno che ha preso, almeno qua in Italia, è un fenomeno proprio di massa, e non soltanto nel senso che uno si fa un tatuaggio e poi finisce lì. Comincia e poi è difficile smettere, mettiamola così. Ci sono delle tendenze nel mondo del tatuaggio, immagini che vanno più di altre in un determinato periodo? In realtà come periodo no. In realtà ci sono gli stili dei tatuaggi che ognuno poi si differenzia come persona e predilige uno rispetto a un altro. Certo che quelli che tirano sempre sono i tribali, sono i realistici, sono i ritratti e il giapponese, che comunque è sempre un'arte che ha un suo effetto esagerato sulla pelle, ecco. Siamo bravi noi italiani come tatuatori? Noi abbiamo avuto un escalation verso l'alto in brevissimo tempo esagerata. Ci sono degli artisti che possono benissimo competere con gli artisti migliori del mondo, che magari lo fanno da 50 anni, noi in 20 anni siamo riusciti a raggiungere un livello veramente eccelso. Qui ci sono degli artisti, ne abbiamo 320 qui in convention, che lavorano e fanno dei lavori che sono delle opere d'arte su pelle. E nei contest si vede bene, quando ci sono le premiazioni dei vari stili, che tipo di lavoro viene fatto, con quanta perizia e con quanta arte ci si deve mettere, è passione. Oltre alla sofferenza di chi se lo fa fare, evidentemente. Ecco, questo lo dobbiamo dire, c'è la sofferenza di chi se lo fa fare. Noi siamo un po' paurose, l'abbiamo già detto io e Maria Luisa. Assolutamente. Ma sicuramente non fa piacere, nel senso che l'ago quando buca fa male. Ci sono dei punti più sensibili, e quella anche lì varia da persona a persona, dove fa più male. Ma in generale comunque 3 ore di seduta sono pesanti. Beh, 3 ore per un bel disegno. 3 ore per l'inizio di un bel disegno, perché a volte lo fai anche in più sedute, perché deve guarire per poi riprenderlo, per finirlo, non puoi magari farlo in un colpo solo, perché è talmente complicato, talmente impegnativo che anche il tatuatore stesso deve farne una parte, aspettare che guarisca e andare avanti con la seconda. Tanti magari lo cominciano e poi in un secondo momento, magari dopo un anno, lo continuano, perché magari è un disegno che può essere ripreso in un secondo momento e magari nell'arco del tempo ha anche cambiato un pochettino idea e lo modifica rispetto all'idea originale. Questo stiamo parlando di lavori grossi, lavori che magari ti riempiono tutto un braccio o ti fanno una mezza schiena, ecco. Incredibile. Non certo la classica rondine, per dirla come un fenomeno che va per la maggiore, che è una cosa abbastanza semplice. Ecco, cosa ne pensi di quelli che si fanno giusto appunto la rondinella per dire che hanno un tatuaggio? Cioè gli appassionati seri di tatuaggio cosa ne dicono? Gli appassionati seri di tatuaggio dicono che quello lo fanno perché per loro è un lavoro. In realtà, secondo me, non c'è proprio quella grossa soddisfazione. E comunque una rondinella non andrà mai ad un contest, non parteciperà mai ad un concorso. Una rondinella non fa primavera, insomma. Bah, mettiamola un po' così. Però la maggior parte delle ragazze e tutto, una rondine da qualche parte ce l'hanno, nel mezzo degli altri. Magari per tanti è stato il primo. Poi ne hanno tanti molti più importanti, ecco. Ma fa male anche cancellarli? Le tecniche di cancellazione sono andate avanti? Ma le tecniche di cancellazione saranno anche andate avanti. Sinceramente noi non ce ne occupiamo, perché per noi il tatuaggio è un'eresia, una cosa che rimane, quindi se te lo fai devi essere consapevole di quello che ti fai fare. Nico, un'ultima domanda. Maria Luisa prima ha detto non ho l'età. Secondo te c'è un'età per cui insomma sia giusto nella quale sia giusto tatuarsi, oppure nella quale sia giusto mettersi il cuore in pace, o le cose sono cambiate? No, le cose non sono mai cambiate. Dipende da quello che gli organi di informazione trasmettono alle persone, ma in realtà dalla maggiore età in su, noi qua non permettiamo di fare tatuaggi su minorenni, neanche col consenso dei genitori. Questo per una linea di principio nostra, che comunque vale un po' dappertutto. E è logico che quando uno ha 18 anni molto probabilmente è preso da certi aspetti della cultura o delle sue sensazioni, che tende a farsi dei tatuaggi che poi col tempo possono diventare anche scomodi. Però al di là di quello, la consapevolezza di quello che uno si vuole fare sulla pelle e che poi sa, perché gli viene detto che non lo può cancellare, è tutta personale. Nick, per chiudere, fondamentale anche il discorso dell'informazione, della prevenzione. Da voi sono presenti anche dei dermatologi. Sì, esatto. Questo è un aspetto a cui noi teniamo molto e sono ormai diversi anni che li facciamo venire alla nostra convention, perché abbiamo avuto l'esperienza di persone che si sono fatte fare un tatuaggio magari in un posto del corpo, su un pezzo di pelle che era soggetto ad avere delle dermatiti, oppure era infiammato, poi il tatuaggio non prende, oppure fa infezione, cosa ancora peggiore, oppure hai dei nei che pensi che siano dei nei normalissimi e tutto quanto, e invece presentano già dei problemi. I dottori sono qua proprio per quello, per darti un consiglio anche prima di farlo. Quindi screening della pelle, ma anche posizioni dove poter fare un tatuaggio e dove invece no, un messaggio che ci sentiamo assolutamente di sottolineare. Grazie Nick. Grazie a voi, è stato un piacere, un abbraccio a tutti. Grazie Nico, un appuntamento a Torino, e invece con Maria Luisa Pezzali l'appuntamento a Radio 24. Come sempre, domani alle 22, essere avere. Ciao Marta.